Scusa, scusa, ma tu sei Bifa, quello che canta? Vabbè, canta. Ma che canzone fa? Non ti vergogni, ma come ti vesti? Va, va, va. Info, ma tu, dammi cazzo. Quando apri bocca ti consiglio di riflettere, pensa bene le parole, tanto sono a correndere. Tu prova ad urinare a controvento, mi puoi credere, ti sciacqueresti meglio il viso senza perdere. Tempo a stento, sono attento, ti sento come Brunetta, farebbe in Parlamento, non mi pento mai delle scelte che faccio. Se ascoltassi tutti mi metterei a colonnaccio. Tutti sono i migliori per voi, quando sento i miei tizi facevo strage. Poi c'è tanta coda dal falegname, una sega non serve se solo per tagliare. Ma come vesto? Saranno fatti miei. Ma chi frequento? Saranno fatti miei. Ma dove vado? Saranno fatti miei. Ma cosa canto? Saranno cazzi miei. Tipo, ma tu ognuno deve fare ciò che gli va. Tu vivi e lascia vivere tutto qua. Nessuno può giudicare ma c'è chi lo fa. Allora caccia fuori questa semplice risposta. Bimbo, ma tu da me cazzo. Bimbo, ma tu da me cazzo. Ognuno deve avere la sua libertà, scegliere di vivere non per metà. Nessuno può giudicare ma c'è chi lo fa. Se non sei d'accordo la risposta è sempre quella. Bimbo, ma tu da me cazzo. Bimbo, ma tu da me cazzo. Si fermi, c'è che io nella mia volta di tutte le cazzate ne ho fatto una raccolta. Ragazze sparse in giro per il mondo, nei locali tutte in fila, nemmeno fosse il bagno. Tutte mi cercano, tutte mi vogliono. Sono così tante che da alcune devo dire no. A calcio mi chiamano il fenomeno. Quando gioco io si ferma il cronometro. Quando ballo mi sballo, prendo tutto quanto. Mi conosci bene, non sono amico un santo. Pianto solo quando abbiamo vinto il mondiale. Tutto l'appendice senza anestesia locale. Poco male, sono duro decisione. È Rambo che mi porta a letto la colazione. Ma scusa, mi stai prendendo per il culo? E certo, non volevo ti sentissi solo. Ma come detto? Saranno fatti miei. Ma chi frequento? Saranno fatti miei. Ma dove vado? Saranno fatti miei. Ma cosa canto? Saranno cazzi miei. Bimbo, ma tu ognuno deve fare ciò che gli va. Tu vivi e lascia vivere tutto qua. Nessuno può giudicare ma c'è chi lo fa. Allora caccia fuori questa semplice risposta. Bimbo, ma tu da me cazzo. Bimbo, ma tu da me cazzo. Ognuno deve avere la sua libertà, scegliere di vivere non per metà. Nessuno può giudicare ma c'è chi lo fa. Se non sei d'accordo la risposta è sempre quella. Bimbo, ma tu da me cazzo. Bimbo, ma tu da me cazzo. Ma come desto? Saranno fatti miei. Ma chi frequento? Saranno fatti miei. Ma dove vado? Saranno fatti miei. Ma cosa canto? Saranno cazzi miei. Ognuno deve fare ciò che gli va. Tu vivi e lascia vivere tutto qua. Nessuno può giudicare ma c'è chi lo fa. Allora caccia fuori questa semplice risposta. Bimbo, ma tu da me cazzo. Bimbo, ma tu da me cazzo. Ognuno deve avere la sua libertà, scegliere di vivere non per metà. Nessuno può giudicare ma c'è chi lo fa. Se non sei d'accordo la risposta è sempre quella.